Tanto, vabbè, mi presento, sono Sebastiano del collettivo universitario autonomo. Vabbè, immagino che tutti e tutte quelli che ascoltano questa intervista abbiano presente quello che succede oggi a Bologna, cioè la venuta di Fiore, uno dei mandanti della strage di Bologna, ex terza posizione, adesso leader di Forza Nuova. Come sempre la città di Bologna a queste provocazioni sa come rispondere. C'è anche l'evento delle 17 cittadino, però anche l'università, appunto, partendo da questo evento qua, abbiamo deciso di organizzarci. Ci siamo dati l'appuntamento all'una in Piazza Verdi per appunto raccoglierci le loghe del sapere, iniziare a prendere posizione e schierarci contro il fascismo e il fascismo nero di Fiore, chi porta avanti idee di oppressione, di odio, di divisione tra gli ultimi e di morte. Perché ben sappiamo che il fascismo non è morto, ce lo insegnano i compagni e le compagne della rivoluzione del Rojava, che hanno combattuto per anni il fascismo nero dell'ISIS, ma lo capiamo anche qua in Italia, quando poi la politica istituzionale, Salvini in primis, sdoganano certe terminologie, certi discorsi di odio. Quello che abbiamo fatto è stato trovarci in Piazza Verdi, prepararci appunto a questa giornata di lotta e fare un primo passaggio, cioè quello di andare verso Piazza Galvani e di rendere inospitale quel posto a Fiore e tutta la sua marmaglia nera. La nostra idea, appunto, quello che volevamo mettere in campo era quello di affiggere uno striscione che ricordava la strage del 2 agosto del 1980, in cui 85 persone hanno perso la vita, e appunto rendere inospitale quel luogo a chi viene a perpetrare e a portare le sue idee di odio e di sfruttamento e di oppressione. Quello che abbiamo fatto appunto è stato avvicinarsi in corteo selvaggio a Piazza Galvani, dove ovviamente già il dispositivo repressivo è in atto, è a lavoro. Abbiamo trovato davanti a noi grate, idranti e i digos e celerini che hanno cercato di toglierci lo striscione, appunto il striscione che ricordava la strage del 2 agosto e le vittime di quella strage. Fare che con questi striscioni in questi ultimi tempi le forze dell'ordine abbiano un po' di problemi, diciamo, forse non si può più dire tutto, se la fastidio a qualcuno. Però comunque abbiamo provato a entrare in Piazza Galvani e portare questo striscione, e quindi niente, dopo che abbiamo provato a portare lo striscione con una scritta che ricordava la strage del 2 agosto in Piazza Galvani, siamo stati respinti dal dispositivo repressivo, dalle grate, dagli idranti, dai celerini e dalla Digos, che ha cercato di strapparci lo striscione. Per questo abbiamo deciso di portare l'assedio a tutti i lati della piazza, e ora ci siamo di nuovo attestati in Piazza Maggiore in attesa del presidio cittadino, che si terrà alle 17, a cui invitiamo tutti e tutte a prendere parte e a schierarsi contro Fiore, Forza Nuova e chi porta avanti idee di oppressione e di odio in questa, e chi prova, diciamo, a portare avanti in questa città queste idee, ben sapendo però che questa città a rispondere, ed era la sua risposta ancora più forte dell'anno scorso, quando il 16 febbraio più di 5.000 persone sono scese in piazza e si sono scontrate contro appunto il comizio dello stesso Fiore. Perfetto, solo una cosa sullo striscione in cui si legge la strage del 2 agosto, oggi grida ancora più forte, ti chiederei se lo striscione voi comunque lo avete ancora, se riproverete a portarlo anche in Piazza Galvani o comunque resterà al presidio, diciamo. Lo striscione ce l'abbiamo ancora, hanno provato a toglierlo ma ce l'abbiamo. L'idea comunque è quella di cercare in tutti i modi di rendere inospitale Bologna stessa e quella piazza per i fascisti. Quindi credo che quello striscione ci accompagnerà nel presidio, e anche se ci muoveremo in tante e tante contro il comizio di Forza Nuova. Comunque il ricordo ancora vivo di quella strage, noi vogliamo in qualche modo portarlo avanti e additarne i colpevoli. Quindi c'è ancora, e proveremo a portarlo di nuovo.